Dunque, buonasera anche da parte mia, che bello avere questi microfoni senza il microfono davanti alla faccia, già questo mi rende felice. Dunque, Marilu Oliva, scrittrice bolognese, docente di lettere, collabora peraltro con diverse riviste, tra cui Huffington Post e Thriller Magazine, oltre ad essere caporedattore nonché ideatrice del blog Libro Guerriero. 10 anni di pubblicazioni, 2 trilogie, un terzo ciclo che si apre proprio con Le spose sepolte, di cui parleremo questa sera. Scrittrice pluripremiata, un grande amore per Gabriel García Márquez, l'impegno nell'affrontare temi legati alle questioni di genere. E beh, al centro della sua scrittura c'è un mondo popolato da donne e tutta la sua produzione è abitata, direi, da donne. Le protagoniste, pur se diverse tra loro, e ci tengo a dire questo, sono donne, tanto più per l'appunto nel libro di cui parliamo e attraverso il quale parleremo anche degli altri suoi libri pubblicati e della sua scrittura in genere, Le spose sepolte, il primo di una nuova serie, la cui protagonista è l'ispettrice Nicole Medici. Mentre il secondo uscirà a giugno, e magari in chiusura le chiederemo di aiutarci e dirci qualche cosa, si intitolerà Musica sull'abisso, sempre per HarperCollins. Qualche coordinata, senza raccontare troppo delle spose sepolte, ci serve perché poi entriamo davvero nel cuore della nostra chiacchierata. Dunque, l'ispettrice Nicole è alle prese con un killer seriale, o meglio un killer di killer, intenzionato a vendicare femminicidi che sono rimasti impuniti. Quindi rintraccia, fa confessare, uccide gli omicidi, indicando poi alle forze dell'ordine dove ritrovare le spoglie, le ossa delle vittime. Siamo sull'Appennino bolognese, a Monterocca, un paese del tutto fittizio, quindi letterario. Nota come la città delle donne perché da anni il borgo è governato da una giunta sostanzialmente al femminile, che in un clima idilliaco, apparentemente idilliaco, sembra garantire benessere, criteri eco-friendly, un'amministrazione onesta che rispetta la meritocrazia. La ricchezza del borgo è garantita anche da una importante azienda farmaceutica all'avanguardia che fa ricerca, che sta facendo ricerche su varianti che annullino gli eventuali effetti collaterali del pentotal, un anestetico e sedativo usato in medicina. L'indagine di Nicole si alterna ad un inquietante quanto intenso racconto di una bimba che è vessata da una babysitter tra violenze psicologiche e soprusi. Dunque, con Le spose sepolte nasce questa nuova protagonista, che è una protagonista, direi, forte, che lotta per farsi valere in una realtà sostanzialmente dominata dagli uomini. Nicole è un'ispettrice, è una professionista dunque, e poi vi spiegherò perché l'ho preciso, razionale, realista, ma anche battagliera. Ha una madre invadente, petulante, che continua a telefonarle mentre lei lavora, un fidanzato che la molla attraverso un SMS, ed è una donna che si batte, al contempo però conserva un aspetto apparentemente incongruo con il personaggio e forse anche con il ruolo che questa donna ha. Perché Nicole fa dei sogni, che però non sono dei sogni premonitori, e lei stesso lo dice. Sono dei sogni di chi sa ascoltare una parte probabilmente irrazionale, un sogno che rivela, che vede quello che la ragione non vedrebbe. E quindi Marilu Oliva dà dignità a una parte irrazionale, intuitiva e soprattutto a quel grado di empatia che conta molto. Grazie, grazie per questa bella presentazione, buonasera a tutti. Io sono molto contenta di essere qui, c'è veramente una bella atmosfera e poi prima sottolineavo è molto bello che ci sia la presenza delle istituzioni. Io sto girando tanto e comincio a notare che quando c'è e quando non c'è, insomma è un segnale importante per tutta la comunità. E poi davvero i complimenti a Fabrizio Quadranti perché ha messo in piedi un progetto veramente, cioè 15 anni e questo questa atmosfera di passione e soprattutto anche di sinergie, no? Io ho capito che ci sono tanti sponsor, tutti in qualche modo appoggiano la cultura. E, quindi veramente buonasera a tutti. Allora, Micole è una protagonista che nasce dopo un'altra protagonista che era molto più dannata di lei, era molto più spavalda, se vogliamo, era molto più concreta. Micole è una bolognese, una trentina d'anni, ha le idee ben chiare, vuole lavorare, vuole proseguire la carriera in polizia e soprattutto è un personaggio estremamente razionale, estremamente matematico. Lei ha il suo metodo dal quale non riesce a sgarrare. E infatti questa peculiarità dei sogni io l'ho inserita proprio per sporcarla, perché non mi piacciono i personaggi tutti neri o tutti bianchi. È giusto dare delle sfumature, perché poi noi siamo così, così è il mondo, no? E la fiction si deve comunque interfacciare con la realtà. Quindi l'ho sporcata dandole questo bel ingombro dei sogni notturni. Cioè lei fa dei sogni per cui quando di notte si sveglia tutta sudata perché magari l'ha appena visitata il cadavere di una donna che è sparita e le dice: Micole, stai attenta a quel dettaglio, no? Quel dettaglio che lei ha trascurato. Lei si sveglia molto angosciata e cerca di razionalizzare e se la spiega così, dice: vabbè, questi sogni non sono sogni vaticinatori, no? Non leggono la realtà, semplicemente quello che di giorno ho visto, la mia parte inconscia ha immagazzinato quello che invece la mia parte consapevole ha trascurato, no? Qualche dettaglio. Quindi questa è la spiegazione che lei si dà. La forza di Micole credo che sia la sua capacità di relazionarsi con garbo verso le altre persone, verso il mondo, un mondo che delle volte è anche ostile. Mentre la mia precedente protagonista, la guerriera, era appunto una guerriera, era delle volte reagiva di istinto, di pancia, era anche un po' scontrosa, Micole invece è caratterizzata da questa gentilezza. Io credo molto nella gentilezza in generale e quindi ne ho fatto portavoce a Micole. È gentile all'inizio col suo fidanzato, voi la conoscete le prime pagine, per cui c'è una grande litigata, lui la rimprovera tantissimo perché lei non si trucca a dovere, non si veste abbastanza sexy, addirittura ha una cicatrice sul volto, ma una leggera cicatrice. Lui le dice: ma perché non vai da un chirurgo plastico? Basterebbe un piccolo ritocchino, un piccolo intervento, no? E capite che però non è tanto bello quando il tuo fidanzato ti dice queste cose. Quindi lei, anziché mandarlo al diavolo come dovrebbe, no, lei incassa e poi insomma comincia le sue indagini e, come giustamente diceva Rossana, lascerà con un SMS nella maniera più vile. E il rapporto con la madre anche di Micole è interessante per me, da scrittrice parlo, è interessante perché ho voluto che lei si misurasse sempre con una donna abbastanza ingombrante. Come giustamente diceva Rossana, è una donna anche petulante. Avete presente quelle mamme che vogliono sempre sapere tutto, vogliono sempre i figli pronti lì a loro disposizione? Ecco, infatti Micole, tra l'altro vi dico una curiosità, io ho una figlia che si chiama Micole e quando mi dicono: ma è tua figlia? No, non è mia figlia, io non sono quella mamma, sono molto diversa come mamma. E poi soprattutto la utilizza anche come paggetta delle volte, no? Come servetta, ha bisogno che le disbrighi, le risolva alcuni disguidi quotidiani, il PIN e le bollette, insomma è una mamma un pochino invadente, però lei la gestisce in una maniera molto delicata. Ciò non toglie che delle volte anche Micole sbotti. Per fortuna, sarebbe interessante comunque. Allora io anticipo una cosa che mi piacerebbe mettere a fuoco e che pensavo di raccontare dopo, ma perché mi sembra abbastanza importante, no? Hai alluso prima alla trilogia della guerrera. La protagonista appunto di una trilogia di qualche anno fa, Elisa Guerrera, che era appunto una donna molto scafata, libera, eccessiva, non era una professionista, era una studentessa di criminologia, se ben ricordo, arruffata e detta guerrera per l'appunto perché lei aveva appunto questa passione per capoeira, che è l'arte marziale brasiliana. Io ho pensato in questo caso ad una figura più notturna, meno rassicurante di Micole, anche meno conciliante. Allora mi sono chiesta se in fondo Micol fosse l'altra parte del femminile, ovvero se la guerriera e Micol nell'insieme potessero ricongiungere le due anime del femminile, dove la guerriera era un po' una sorta di Lilith, no? Di luna nera. Assolutamente sì, la guerriera non prende di petto tutto, è forse la parte più animalesca anche, no? della donna. Micol invece è la donna che si deve misurare con la società, quindi comunque quando c'è da combattere, come poi siamo tutti noi, no? Quante battaglie portiamo avanti anche silenziosamente ogni giorno, ecco, questa è Micol. Micol ad esempio se la deve vedere con un team poliziesco che almeno nel suo caso è abbastanza macista, quindi le fa ostruzionismo attraverso tutta una serie di trucchetti, no? Come ad esempio cioè il suo collega, che non è il suo collega, sarebbe il sovrintendente. Micol è ispettore, quindi gerarchicamente è al di sopra di lui. Però lui non accetta questo, non accetta di ricevere ordini da una donna, per di più una donna giovane o come lui, non si capisce quanti anni ha Iacobace, però più o meno siamo lì. E allora che cosa fa? Mette in atto la strategia di ignorarla. Non so se vi è mai capitato di parlare, avete qualche interlocutore che fa finta che voi non ci siate, no? Quindi lui non la guarda, non ribatte. Ecco, si parte da questi piccoli modi così un po' antipatici fino anche a qualcuno che delle volte le ruba i meriti. Però a Micol non interessa, ecco, mentre la guerriera in questo caso avrebbe steso a terra Iacobacci con un bel colpo di capoeira, ecco, Micol invece no, impara, a parte che non è vendicativa per niente Micol, però impara anche dagli sgarbi che riceve, no? Magari a stare un po' più sull'attenti. E poi quello che le interessa, noi la conosciamo, che va a Monterocca. Monterocca è un paese immaginario dove probabilmente potrebbe esserci l'assassino, non lo sappiamo perché la polizia, l'unico indizio che ha, porta a Monterocca, quindi loro devono partire da lì. Ecco, quando Micol va a Monterocca, l'unica cosa che le interessa è portare avanti le indagini. In questo senso è una grande professionista, perché supera il fatto che Lodovico l'abbia lasciato, supera, insomma, mette da parte, fa finta di non vedere tutti questi sgarbi di Iacobace, perché quello che le interessa veramente è capire chi tra questi abitanti di Monterocca è il cosiddetto serial killer delle spose sepolte. Tra l'altro ti dico che serial killer è una locuzione che anche in polizia dà fastidio, cioè noi nella fiction la utilizziamo perché funziona, però in realtà quanti serial killer abbiamo avuto in Italia? Cioè, detto tra noi, bravo, due. Due, il Donato Bilancia e il gruppo del mostro di Firenze, no? Cioè, alla fine i serial killer che abbiamo avuto, se li andiamo a vedere, non è che siano così affascinanti, soprattutto non so se avete seguito i processi al Mostro di Firenze, che tra l'altro hanno fatto uno speciale poco tempo fa, però erano un gruppo di zotici, violenti, che uno violentava la figlia, picchiava la moglie, insomma, io non dico che gli assassini siano affascinanti, assolutamente, però nel momento in cui tu li trasponi nella narrativa devi dare al lettore un elemento in più. Allora in questo caso il mio serial killer, qual è l'elemento in più? Che è un vendicatore, un giustiziere, cioè lui vuole in qualche modo ristabilire l'ordine delle cose. Esatto. Su questo veniamo, perché comunque non vorrei perdere il baricentro di quello che è forse in generale la scrittura di Marilou Oliva, ma che sicuramente qui si condensa, e cioè al centro del romanzo ci sono i diversi casi di femminicidio. Potremmo anche dire, secondo me, che è un romanzo sul rapporto tra, o meglio, sul rapporto che uomini e donne hanno, naturalmente a vario titolo, con il femminile in assoluto, con il femminile in quanto tale, no? Che resta un rapporto irrisolto, conflittuale, rimosso, traumatizzato, e che in fondo si rivela, senza che siano dei femminicidi ben inteso, anche nei piccoli rapporti quotidiani, perché rimane sempre un rapporto con il femminile irrisolto. E questo credo sia molto importante. D'altro canto, un altro elemento che mi sembra sia centrale è quel senso di colpa o comunque di conto in sospeso e le conseguenze devastanti sui figli delle donne vittime uccise. Credo che questi siano due baricentri, da cui discendono anche altri temi, di cui poi magari parliamo. Sì, in merito al rapporto tra uomo e donna c'è ancora molto di irrisolto, c'è ancora molto da dirimere. Certo, non credo di risolverlo io con un romanzo, però posso lanciare qualche spunto di riflessione. E anche perché ci sono all'interno delle coppie alcune coppie che non funzionano, ma anche alcune coppie riuscite, no? Come ad esempio quella della vice sindaca e del suo compagno, che tra l'altro il suo compagno mi sono ispirata a uno scrittore molto famoso. Dopo mi dici se hai scoperto chi è. Sì. E nello specifico dei femminicidi, in questo romanzo il lettore capisce subito che c'è qualcuno che è veramente molto molto arrabbiato per tutte quelle donne che sono sparite da casa e che non hanno fatto più ritorno. Voi sicuramente vi verranno in mente alcuni casi celebri, nostrani, cioè ad esempio Roberta Ragusa, avete sentito parlare, no, di Roberta Ragusa. E io ho pensato a questo romanzo quando Elena Ceste non era ancora stata trovata, oppure pensavo ai primi tempi in cui si cercava, le prime giornate in cui si cercava Melania Rea. Ecco. Ci sono questi tre casi, tra l'altro si trovano nel romanzo. Un appassionato di criminologia come mi sembra il signore qui in prima fila sicuramente li riconosce. Allora, voi immaginate una situazione come quella di Roberta Ragusa. Il serial killer è veramente arrabbiato perché queste donne sono sparite, arrabbiato delle volte anche per la strafottenza, no? Con cui è stata portata avanti la difesa, per alcuni sorrisetti fuori luogo. Allora che cosa fa? Va dal sospetto uxoricida, lo costringe a confessare, lo costringe con un metodo, diciamo, quasi infallibile, se vuoi ne parleremo dopo. E nel momento in cui lui dice sì, sono stato io, e dice dove sono, rivela anche dove ha nascosto il corpo, lui lo fa fuori. Questa è la prima parte del suo modus operandi. Ma la vendetta vera, quello che davvero gli interessa per ristabilire l'ordine, è far sapere alla polizia dove si trova il corpo di questa donna. Perché? Perché questo riguarda la sua memoria. E qua io volevo aprire un discorso, naturalmente un discorso che non ho aperto nella pratica, no? Ma nella mente del lettore, nelle possibilità. Ma viene evocato comunque, no? Esatto, sulla memoria di queste donne che scompaiono. Perché? Torno ai casi che ho citato prima. Io non so se vi ricordate quando all'inizio intervistavano il marito di Elena Ceste, lui voleva far credere che lei fosse scappata, fosse andata via da casa lasciando fuori all'interno del cancello i suoi vestiti. Siamo in febbraio, eravamo in febbraio, no? Quindi l'immagine che sarebbe rimasta ai figli qual era, se non fosse stata trovata la donna? Quella di una donna che si incammina nuda verso un'altra vita, che molla i figli così. E credo che sia il più grande scempio che si possa fare a una madre, perché i bimbi, i ragazzi, per tutta la vita si domanderanno: ma allora se n'è andata? Allora io non ero abbastanza per lei, no? E invece noi lo sappiamo tutti, o siamo mamme, o siamo padri, o siamo figli comunque, lo sappiamo che una mamma, se non si tratta di casi veramente gravi o di patologie particolari, una mamma non se ne va, non molla i suoi figli, dopo che tra l'altro ha dedicato loro tutta la sua vita. Ecco, il momento più importante per il mio omicida è questo, no? Restituire alle donne la loro vera memoria. E qui interviene anche una cosa molto interessante, perché io so che Marilu Oliva di temi di genere si occupa da tempo, non soltanto nella sua scrittura. Beh, intanto voglio ricordare che già nel 2013 si occupava in un'antologia intitolata Nessuno più 40 scrittori contro il femminicidio, però è abituata anche a parlarne nelle scuole. E io credo che questo sia molto importante. A questo punto però io ho fatto una riflessione: perché, o meglio, qual è la forza della narrazione, anche la potenza del raccontare queste cose, quindi attraverso la scrittura, oltre che attraverso il contatto con le nuove generazioni? Sì, più che la forza della narrazione, io direi delle narrazioni, di tutte le narrazioni, quelle di cui anche noi, voi, tutti noi siamo portavoce, no? Ad esempio, non so, i giornalisti, come delle volte preferiscono dei titoli sensazionalistici, e questi fanno veramente male, fanno male alla percezione, perché poi noi non ci rendiamo conto di tutto quello che introiettiamo, no? Tutto quello che ci viene gettato addosso e introiettiamo, e finisce poi nella nostra mentalità, nel pensare comune. tutte le narrazioni, le pubblicità, come si pongono i media, ad esempio, vi faccio un esempio, la pubblicità, le donne come vengono offerte come un oggetto, no? La cosiddetta reificazione, come un oggetto sessuale, oppure sono sdoppiate, almeno nella televisione italiana sono sdoppiate, che poi vedete anche voi, perché Perché non è che siamo molto lontani in ogni infatti, caso. Oppure sono donne adibite alla casa, puliscono. Voi pensate i prodotti per i lavaggi, solitamente. Adesso ho visto una pubblicità di recente con un uomo, però è veramente raro. Voi immaginate se ci fossero gli extraterrestri e si collegassero con le nostre onde, con i nostri canali da lontano e pensassero che sulla Terra vive quello che vedono in televisione, se loro fossero collegati con la nostra televisione, che cosa penserebbero? Che qua vivono solo donne fino ai 30-40 anni. Dopo 40 anni devono essere molto molto lavorate, ecco, in qualche modo, no? E donne che comunque hanno solo una funzione decorativa, adornativa, ecco, anche questi messaggi sono importanti, perché poi o di curatela, esatto, e di cura. Se io mi convinco che una donna è un oggetto, mi faccio anche meno problemi a farla fuori, diventa quasi meno grave. Ecco, mette in rilievo una cosa importante, che è una questione di potere. E esatto. Non di libido. Esatto, il potere, cosa tra l'altro, che vale la pena ricordare in questi giorni. Sì. Il potere, mi fa piacere che tu abbia citato Nessuna Più, perché prima con Fabrizio parlavamo del comune amico Maurizio De Giovanni, e lui ha partecipato a Nessuna Più, si intitola così l'antologia Nessuna Più, il mestiere 40 scrittori contro il femminicidio. Lo stesso Maurizio, qualche anno dopo, ha partecipato a un altro progetto, sempre contro il femminicidio, che si intitola Il mestiere più antico del mondo, punto interrogativo. E entrambi i progetti sono diciamo, stati patrocinati da Telefono Rosa, nel senso che tutti i proventi, sì, poi sono andati a loro. Quindi c'è stato anche un aiuto, come dire, pratico, ma non solo pratico. Devo dire, tra l'altro, che i racconti di Maurizio erano bellissimi. In Nessuna Più, 40 scrittori contro il femminicidio, io ho chiesto a ciascuno di ispirarsi a un caso reale di cronaca, e devo dire che ci sono dei racconti veramente molto forti. Io nel mio caso ho scelto quello di Elisa Claps, vi ricordate, la ragazza di Potenza, tante volte è capitato, come anche nel mio caso, che ci siamo messi in contatto con i familiari. Tra l'altro i familiari hanno accolto questo progetto con molta attenzione, c'è stato un feedback veramente tanto, tanto emozionante. Abbiamo girato tantissimo nelle scuole, nelle librerie, con Nessuna Più, però devo dire che tra tutte le cose che abbiamo fatto, io mi sono resa conto, un giorno mi sono resa conto dell'utilità di questo, di questa antologia, perché alla fine di una presentazione, come tante altre, è venuta una donna e mi ha detto, molto timidamente, ma lo sa che anche a me sta succedendo questo, cioè anch'io sono maltrattata, anche mio marito mi picchia, io sto facendo finta di niente, però adesso, dopo aver sentito tutto quello che avete detto, credo che andrò da un centro per le donne. E questo mi ha fatto capire che tutto il lavoro che avevamo fatto, aspetta, era servito a qualcosa. E veniamo. Grazie. E veniamo a Monte Rocca, dove si svolge l'azione di Micole, la ricerca di Micole, che è apparentemente un borgo idilliaco. Abbiamo detto che è un borgo che non esiste, sto perdendo il microfono, che è un borgo che non esiste, dove vige una sorta di equilibrio, dicevamo, idilliaco, no? Un'alta qualità di vita, il cittadino sembra essere rispettato, non è vessato dalle autorità, è collaborativo di conseguenza ed è governato da donne. Leggendo scopriremo che anche a Monte Rocca, in fondo come in tutto il mondo, ci sono delle ombre. E allora è una sorta di sepolcro imbiancato, oppure in realtà è perché cela la complessità e anche la contraddittorietà di noi esseri umani? Sì, Monte Rocca innanzitutto non esiste, ve lo dico perché alcuni lettori l'hanno cercato e hanno trovato un monte che si chiama Monte Rocca, ma non è il mio comune immaginario. E mi sono un pochino ispirata a un paesino in provincia di Bologna che si chiama Rocchetta Mattei, l'idea che ci fosse una rocca, no? Che ci fosse un monumento che desse poi, che fosse eponimo, no? Che desse il nome. E, però Monte Rocca mi serviva per fare un esperimento, cioè io volevo inserire una giunta al femminile, non me ne voglia sindaco, con un una sindaca donna, una vice sindaca donna e soprattutto una giunta quasi esclusivamente al femminile. Perché? Non certo per dimostrare che le donne governano meglio degli uomini, non sono per queste dicotomie assolutamente, non, però per dimostrare che se alle donne fosse data davvero la possibilità di governare, se la potrebbero cavare. E questa ci sembra un'ovvietà, però di fatto non avviene, non avviene. Di fatto ci sono tanti pregiudizi, no, sulle donne. Tutte le strade sono al femminile. Sì, la scelta è stata quella di intitolare tutte le strade, a partire dalla porta d'ingresso dedicata a la partigiana bandiera fino al viale, ma non solo donne che hanno fatto la storia, ma anche donne di lettere, donne di scienza, cantanti. Il viale principale è dedicato a Mia Martini, che voi sapete, è una cantante che insomma è stata recisa, no? Nel fiore della sua carriera, in qualche modo per colpa dei pregiudizi. E voi direte, ma perché le vie, che senso hanno? Ma no, hanno un valore simbolico. Sapete che... Scusa, interrompo, e forse anche per qualcosa di più, cioè per un rapporto abbastanza irrisolto col padre, non a caso. Sì, no, stavo pensando già al valore simbolico. Mi sono fermata perché, sì, guarda sì. Caso, aveva questa doppia valenza, no? Certo, in Italia il numero delle vie intitolate a donne è del 5%, 5% che a Milano scende al 3%. Allora io sono andata a vedere alcune vie su Wikipedia di donne che non conoscevo, no? E, biografia, no? Quindi c'era il nome della donna, c'era scritto madre di personaggio illustre, no? Quindi cosa avevano fatto queste donne nella vita di importante? Avevano figliato un uomo, un grande uomo. Ecco, no, non è giusto, perché poi noi camminando per le strade, i bambini, i ragazzini camminando per le strade consolidano questo pregiudizio, per cui sembra davvero che le grandi cose le facciano solo gli uomini. Quindi partire dalle vie, ad esempio nel prossimo romanzo che uscirà a giugno, ho deciso, io voglio d'ora in poi in ogni romanzo dare il mio contributo così, per dare visibilità anche alle donne, perché anche non dare visibilità è una forma di discriminazione. Allora, a Monte Rocca ci sono le vie. Nel prossimo romanzo, grazie. Grazie. Sindaco, se avete qualche via nuova, prenda nota. No. Nel cambiamo prossimo... tutto il nome delle vie di Massagno. No, beh, comunque ci sono anche... Nel prossimo romanzo invece ci sarà una parte dedicata alle cantanti, perché ho scoperto che c'è un sottobosco di cantanti straordinarie a cui non viene data visibilità. E magari sono un po'... Questo succede anche nel mondo della scrittura, no? Ci sono tante scrittrici brave che magari vengono escluse dai concorsi, non vengono recensite, non vengono... Linda Nochlin nel secolo scorso scrisse un saggio che si intitola tuttora «Perché non ci sono state grandi artiste?» e spiegò che fino al Rinascimento, Barocco, sì, ce ne sono state di meno effettivamente e spesso erano legate alle botteghe dei loro genitori, quindi o avevano la fortuna, no, di avere un padre pittore o se no non nascevano le artiste donne. Però nel Novecento ci furono delle artiste, ma se io vi chiedo, pensate al nome di, non so, un'architetta donna, una fotografa famosa del Novecento, veramente vi verranno in mente pochissimi nomi rispetto ai nomi maschili che vengono in mente, ma non perché non ci sono state, perché davvero sono state occultate. E quindi, insomma, mi sbizzarrisco con le cantanti, ho scoperto delle cantanti veramente bravissime, alcune sono famose, perché ci sarà una tracklist, anche nelle Spose Sepolte c'è molta musica. Sì, infatti, stavo per dirlo. Torniamo però proprio alla scrittura, perché resto dell'idea che tutto quello che stiamo dicendo ha un senso perché stiamo parlando con una scrittrice, non soltanto con una che è anche giornalista, che è anche una donna, che è anche una donna che lavora nella scuola, quindi ci sono stratificazioni di vario genere, ma stiamo parlando con un'opera di finzione e come tale ha le sue regole e deve essere scritta bene, e credo che questo non sia da sottovalutare, e in questo caso mi piace poterlo far notare. Grazie. Perché malgrado il tema sia pruriginoso e quindi è facile cadere o scadere, Marilu Oliva, la tua scrittura non è mai morbosa, questo ci tengo a dirlo. Tende piuttosto in alcuni momenti ad essere anche piana, addirittura molto esplicita quando deve esserlo, ben inteso. Ma l'indagine di Micole si alterna a una cosa a cui avevamo alluso all'inizio, ad un inquietante e aggiungo anche affascinante racconto di una bimba perseguitata, dicevamo, ma soprattutto vessata da una babysitter, tra violenze psicologiche e soprusi, di cui noi lettori, pur intuendo che da una qualche parte dovrà avere a che vedere con l'indagine, evidentemente, non riusciamo fino all'ultimo a cogliere i fili e i nessi. Allora io volevo sapere, questa sorta di climax ansiogeno, no? Volutamente tale, questo racconto che instilla anche e porta alla suspense volutamente, che ruolo ha in questo racconto? È l'anima noir del racconto, perché il romanzo è diviso in due, ci sono proprio, scorre lungo due binari paralleli che poi si congiungono nel finale. La parte noir è proprio questa in corsivo. Voi sapete, cioè, 15 anni di tutti i colori del giallo, sapete la differenza tra giallo e noir? Quindi non la sto a ripetere, perché immagino che già, non so, Luca Crovi è un maestro in questo, Maurizio De Giovanni anche. Comunque, diciamo, senza ammorbarvi troppo con la teoria, la differenza fondamentale è che il giallo vuole sapere chi è stato a uccidere, no? E nel noir invece vogliamo capire perché è successo. Tant'è che i romanzi noir possono essere narrati anche dal punto di vista dell'assassino, che parla in prima persona. Nel giallo abbiamo invece la detection, che porta a trovare l'omicida, e questo ci rassicura. Pensiamo a Jessica Fletcher, la signora in giallo. Noi siamo tranquilli, ma anche nel finale delle volte capita che lei è con l'assassino in una stanza da sola e gli dice: ma lo so che sei tu l'assassino. E noi pensiamo: ma perché glielo dici che adesso tira fuori la pistola? Ma perché noi siamo tranquilli, sappiamo che poi arriva lo sceriffo di Cabot Cove, anche se l'assassino ha tirato fuori la pistola, è vero? Ecco, questo è il giallo. Cioè, io ho scoperto chi è. La morte non è la morte. La morte diventa solo un feticcio per farci superare la paura della morte, anzi per continuare a tenere da parte questa paura della morte nel giallo. E il cattivo va in prigione, l'ordine viene ristabilito. Ecco, il noir è tutta un'altra cosa, tant'è che io ho fatto un'operazione che comunque è rischiosa, perché di solito il lettore del giallo vuole il giallo, non vuole che io lo sbatacchi con il noir. Invece io sono un po' dispettosa, allora ho inserito anche il noir, ma soprattutto l'ho inserito perché, secondo me, quando si tratta di queste cose, di omicidi, non è che li possiamo trattare come brustolini, cioè questo è il male. Se io prendo il lettore per mano e lo faccio affondare dentro al male, come minimo glielo devo spiegare, perché comunque nella vita succedono queste cose e c'è una motivazione, che poi nella vita è sempre meno nobile, perché voi lo sapete che la maggior parte dei delitti avvengono per questioni di soldi, sesso, potere, non per le mie ragioni, diciamo, l'ho un po' nobilitato. E nel caso del mio corsivo parla una bambina. Il lettore nelle prime pagine viene trascinato nel mondo di questa bambina, che ha anche una scrittura diversa rispetto alla parte non in corsivo, perché la parte in corsivo è narrata in prima persona, e quando si narra in prima persona di solito lo scrittore vuole trascinare il lettore, no? Gli vuole dire, gli vuole far scattare l'empatia. Con la prima persona noi abbiamo qualche svantaggio, ad esempio lo svantaggio è quello che non conosciamo tutti i fatti, però abbiamo il grande vantaggio di catturare il lettore, no? Il lettore empatizza di più tendenzialmente. Invece la terza persona ce l'ho a Monterocca, perché poi il lettore, che capisce subito che questa bambina o è l'assassino o è qualcuno molto vicino all'assassino, il lettore dopo si deve divertire a giocare al piccolo detective o al grande detective quando gira per le strade di Monterocca, perché lì deve capire chi tra questi abitanti che incontra è l'assassino. E questi abitanti sono abitanti come noi, eh? Non è che Monterocca, perché è un comune illuminato, vivono solo brave persone. No, vivono anche brave persone che sbagliano ogni tanto, no? Ci sono famiglie, c'è gente che si ama, gente che si odia, gente che si tradisce. C'è una coppia, ad esempio, marito e moglie, dove il marito ha una storia molto appassionata con una ragazza molto più giovane. Infatti la moglie è un po' arrabbiata per questo. Eh sì, come in tutti i rapporti umani. A questo punto vale la pena di tornare a quello aspetto che qualcuno ha definito magico sciamanico, no? Che emerge qua e là in forma carsica, ma torna, e che trova spazio non soltanto e attraverso l'attenzione ai sogni di Micol, di cui abbiamo detto prima, ma anche attraverso un personaggio molto intrigante, che piace anche molto, che è l'erborista Circassa, no? Che mette in rilievo la questione del rapporto tra razionalità e sentimento, tra natura ed essere umano. Tra l'altro, detto per inciso, c'è un altro tema che viene fuori, che è quello della ricerca sugli animali e quindi anche della violenza sugli animali in nome della ricerca, questo appunto da parte dell'azienda farmaceutica, e questo è un tema che c'è. Ma dicevo, mette in rilievo la questione del rapporto tra razionalità e sentimento, tra natura e essere umano e sostanzialmente tra il mondo circostante e l'individuo. Sì, la Circassa è stato il personaggio che il mio editore ha amato di più, tant'è che mi ha detto: per favore inseriscilo anche nel nuovo romanzo. E solo che per me era un po' difficile, perché questo romanzo, Le spose sepolte, è ambientato a Monterocca e il nuovo sarà ambientato a Bologna, e siccome la Circassa ha un negozio, ha un'erboristeria a Monterocca, io ho fatto davvero i salti mortali per portarla a Bologna, però la mia editor è così fantastica che volevo farla contenta. Ma quindi ci sarà? Sì, sì, ci sarà ancora. Mi sono domandata perché è rimasta, non so se sia piaciuta più o meno, però è rimasta tanto impressa la Circassa. Forse per come dicevi tu, Rossana, perché è l'anello di congiunzione un po' tra l'uomo e la natura. A parte che io andrei da lei invece che dal medico, perché trova subito i problemi sì, che hai. Perché voi dovete immaginare questa donna molto, dall'espressione molto marcata, dagli occhi molto profondi, per caucasica. Cui ti guarda, sì, caucasica, ti guarda e ti indovina subito. Capisce i tuoi mali del corpo ma anche dello spirito e ti dice il modo più lineare per affrontarli, no? Non sempre devi ricorrere a delle medicine o degli unguenti o delle pozioni, ci sono anche delle modalità per cui anche lì, andando all'origine, no, riesci a curarti da sola col corpo. E la Circassa tra l'altro ha una figlia con cui ha un rapporto ambivalente. A me interessano molto questi rapporti tra madre e figlia irrisolti, per cui litigano spesso, però poi dopo alla fine si amano tanto. Tornano, no, nei tuoi libri? Sì, e sua figlia si rivolge a lei perché poi sua figlia è la ragazza giovane con cui vi dicevo che sta l'uomo sposato, si rivolge a lei perché vuole risolvere in una maniera assolutamente inadatta questo triangolo, cioè vuole uccidere la moglie. Allora, capite che non va bene, no? La Circassa da madre che tra l'altro anche lei è stata abbandonata dal marito per un'altra situazione, le dice che non si fa così, no? E le dice: guarda, io se voglio... la figlia gli dice: ma a te non è mai capitato di voler ammazzare qualcuno? E quante volte mi è capitato? Però un conto è pensarlo, un conto è metterlo in pratica. Allora c'è tutta una... ci sono due pagine verso... poco più di metà del romanzo, voi avete due pagine in cui la Circassa racconta tutte le persone che avrebbe voluto uccidere, soprattutto i veleni e le erbe con cui le avrebbe uccise. Non leggete quelle pagine quando siete arrabbiati con qualcuno, però mi raccomando, perché sono effettivamente funzionano efficaci, quei veleni. Quanto mai efficaci. Sì. E rispetto alla magia, chiudo dicendoti questa cosa della magia, che hai notato con molto acume, rispetto alla magia, a me interessa tantissimo, non ci credo, però anche nella Guerrera, ad esempio, la migliore amica della protagonista faceva i tarocchi, e qua abbiamo la Circassa che è elemento fortemente magico sciamanico. Ecco, io sono abbastanza miscredente in generale, però posso riassumere un pochino quello che... Sono suggestionata, diciamo senza farmi toccare troppo, sono dolcemente suggestionata. C'è una scena in uno dei miei romanzi precedenti, due romanzi fa, si intitola Lo Zoo. Lo Zoo credo che sia il più feroce dei miei romanzi e anche il più difficile. Ci sono, è tutta una grande allegoria del mondo. Ci sono sette persone diverse imprigionate in uno sfondo, in uno scenario meraviglioso del Salento, quindi c'è questo contrasto, no, tra il loro stato e la natura, e una di queste sette persone riesce a creare un legame con il suo con uno dei carnefici, con una guardia, e allora una sera parlano e parlano di un'altra prigioniera che chiamano la strega. Allora La donna dice alla guardia, dice, ma quindi hai visto la strega? Si sono avverate le cose che ha detto, ha fatto delle magie. E la guardia dice, effettivamente sì, ma tu ci credi? Ci credi veramente a queste cose? E lei risponde, solo quando viene sera. Ecco, e questo un pochino è il mio stato d'animo. Quando verso emerge sera, Lilith, appunto. Sì, mi faccio un po' suggestionare, però dico, ma tanto so che non è vero. Tra l'altro, non c'è una chiesa a Monterocca, perlomeno non viene raccontata, ci sarà, ma è muta, e c'è l'erborista. Sì, è qualcosa vero, vorrà sì, sì, dire sì. Anche quello, no? Mm-mm. Comunque, a sottolineare, ecco, la complessità dei rapporti che per definizione alle volte sono, aggiungo io, giustamente contraddittori, se no non ci sarebbe nemmeno nulla da scrivere. E, è importante, e questo viene fuori ed è credo un elemento che interessa Marilou Oliva, sfumare i confini tra il bene e il male, no? E quindi anche tra le responsabilità, tutto sommato. È come dire che interessa capire le origini piuttosto che non una lettura manichea delle cose, no? Sarà appunto la Circassa, non per niente, a libro inoltrato, a dire a un certo punto bisogna andare all'origine, alla radice delle cose. Sì, questa è appunto la parte più noir che dà le sfumature. Infatti, se voi ci pensate, i personaggi nei gialli sono abbastanza nitidi, no? Sono poco sfumati. Di solito c'è appunto il cattivo, io ho sempre in mente o Agatha Christie. Comunque ci sono dei personaggi a tutto tondo, invece le sfumature sono più contemporanee, ecco, sono più. Pensiamo anche, guardate, dico contemporanee perché penso anche a Manzoni. No? Pensiamo anche a Manzoni, cioè Manzoni, Don Rodrigo è il cattivo, basta, non gli si concede niente, invece anche Don Rodrigo, poveraccio, davvero avrà avuto dei momenti, no? Anche nel momento in cui sta morendo di peste, viene comunque depersonalizzato, quindi non ci si pone il problema delle sfumature, o anche Lucia è così, è timida, è pudica, ha una sua forza, però non ha quelle sfumature. È vero che sono personaggi dinamici, poi abbiamo anche personaggi statici, però nell'Ottocento si tendeva più a prediligere il colore netto. Adesso invece ci si è resi conto che non è così. Però dire che non è così, attenzione, non vuol dire... Ah beh, autorizzare anche, tutto. Sì, anche il fascismo ha fatto delle cose belle, ecco, non vuol dire questo, però vuol dire che effettivamente, cioè, i criminali ci sono, le persone normali ci sono, però le persone normali nascondono comunque delle ombre, come poi nascondono anche tanta luce. Marilou Oliva, chi è lo scrittore a cui alludevi? Oppure che mi chiedessi quali sono le tue ombre? Mi sono salvata. No, non oso tanto, se sono ombre restano tali ed è giusto così. Chi è lo scrittore che mi incuriosisce, quello a cui alludevi come marito? Ah, allora, qui abbiamo la vice sindaca che si chiama Milvia, che poi esiste, è una Milvia Comastri, scrittrice bolognese, che è innamorata platonicamente di Harry De Luca. E quindi io l'ho fatta fidanzare nel romanzo con Harry De Luca, però lui non lo sa e soprattutto non lo sa la sua compagna, perché non deve sapere fuori. Allora. No. Però questa, alla fine, la cosa bella della scrittura, perché nella scrittura credo che ci sia anche molto, molto sudore e molto sangue, ma la cosa bella è questa possibilità di entrare, io lo chiamo il terzo mondo, no? È come se ci fossero prima due mondi. Allora, il primo tre terre, immaginate tre pianeti che in qualche modo ruotano uno attaccato all'altro. Allora, il pianeta della concretezza, quello della vita, da cui lo scrittore comunque ruba per forza di cose. Poi c'è il pianeta della fantasia. Ecco, il materiale di questi due pianeti confluisce nel terzo pianeta, che poi è il pianeta della fiction, del romanzo. Cioè, un romanzo è fatto di vita e di fantasia, ma devi inserirci anche della disciplina. Cioè, non puoi, io ad esempio, nel terzo pianeta ho inserito Milvia, ho inserito Harry De Luca, però non potevo chiamarlo Harry De Luca per una forma di rispetto, no? Quindi l'ho mascherato. Io vi parlavo prima dello zoo. Vi parlo dello zoo perché è il libro che si presta di più a fare degli esempi. Nello zoo, io questi sette prigionieri che ho fatto patire per tre quarti del romanzo, non potevo disattendere le aspettative del lettore. Cioè, in questo terzo pianeta tu devi tenere conto del lettore, e io ho tantissimo rispetto del lettore, esatto, no? E del lettore anche reale, non solo del lettore ideale, perché il lettore ideale è il lettore che io ho in mente, e nel 99% dei casi è il lettore che corrisponde a uno scrittore, no? Ogni scrittore scrive dei libri che in qualche modo lui vorrebbe leggere o che gli potrebbero piacere se li leggesse. Il lettore reale invece è il lettore che compra il libro, e quasi sempre i lettori reali sono molti di più dei lettori ideali. E perché io non devo far contente delle persone che comunque mi dedicano, non dico i soldi del libro, ma il tempo. Voi lo sapete che il tempo è la cosa più preziosa che ci sia, no? E quindi in questa terza stanza, sì, fai entrare un po' di fantasia, fai entrare la vita, però devi anche poi disciplinarlo tu dall'alto in qualche modo. E anche la vita che fai entrare, devi, secondo me, devi filtrarla, perché io ogni tanto sento qualche scrittore che racconta, dice, quello lì mi ha fatto un dispetto, allora io l'ho fatto diventare il cattivo nel mio romanzo. No, cioè non credo che i romanzi servano per queste piccole così vendette un po' meschine. I cattivi ci servono, perché anche a me è capitato di inserire qualche antipatico nei romanzi, però questi antipatici poi alla fine, i personaggi cattivi sono così utili alla narrazione, perché ti creano il conflitto che è poi il motore della narrazione, sono così utili che poi alla fine nella vita quelli antipatici ti diventano pure simpatici, capito? E hanno una loro utilità, via, mettiamola così, anche nella vita tutto sommato, no? Marlo Oliva, tu sei più la Guerrera o sei più Micol? Allora, io non sono per niente Micol, perché Micol ha una mente matematica che io invidio tantissimo. Micol riesce, non so, io mi perdo nelle istruzioni del cellulare, degli elettrodomestici, una fatica. Ecco, invece Micol da una scorsa così legge al volo e capisce già tutto. Non c'è niente di Micol in me. Ho una figlia che si chiama Micol, però non è lei, è che proprio mi piaceva tanto il nome Micol, tant'è che mi sono resa conto, se avessi avuto due figlie femmine, la seconda l'avrei chiamata Micol seconda, da quanto mi piaceva il nome. Sì. E, forse ci sono i suoi ricci, c'è questa sua maniera disinteressata a piacere, no? Nonostante sia una bellissima fanciulla, e basta, perché lei fa tutt'altro nella vita, e poi non puoi mettere un figlio nei romanzi, no? Ecco, mi riconosco un pochino più nella Guerrera, ma non sono neanche la Guerrera. Non riesco a scrivere di me, cioè o potrei scrivere una biografia, ma non ho una vita così interessante. No, io però non intendevo dire l'autobiografismo, intendevo piuttosto dire quale tipo eventualmente ti appartiene più? Ecco. No, la guerrera, e stavo dicendo, diciamo che c'è forse un 30%, no, di quello che ero da ragazza. Ad esempio, ero una grandissima ballerina di salsa, di balli latinoamericani, e la guerrera è una grande bevitrice di rum, io non me la posso permettere, non sono mai riuscita a bere tanto come la guerrera. Era una grande fumatrice, ecco, io ero una grande fumatrice, infatti quando scrivevo avevo smesso di fumare, ho passato quel periodo di astinenza fumando attraverso le sigarette della Guerrera, no? E quindi delle due. E poi nella Guerrera c'è anche il dato biografico, no? Io ho perso presto i genitori e lei anche se a lei è successo in una maniera traumatica, è sempre traumatico, ecco. Però forse questo. Di molto personale nella Guerrera invece c'è un personaggio che si trova anche nelle Spose Sepolte, Virginia. Che è Virginia, brava, è Virginia Boldini. Allora, Virginia Boldini è la mia anatomopatologa. Siccome esiste, e quando esiste qualcuno che puoi sfruttare, è veramente comodo, perché non hai, no, è vero, non rischi di incoerenza. Io ho una nipotina a cui sono molto legata, perché sono cresciuta con mia sorella che ha avuto due figlie, e quindi a un certo punto anch'io l'ho aiutata a crescere queste figlie che adesso hanno 30 anni e c'è un rapporto particolare per cui sono un po' sorella, un po' mamma, non si capisce, no? E ci vogliamo davvero tanto bene, e la mia nipotina fa l'anestesista, però qui nel romanzo l'ho fatta diventare anatomopatologa. È presente nelle Spose Sepolte, ma solo da lontano perché è amica di Nicole e quindi si sentono al telefono. Invece in Musica sulla Bizzo, il romanzo che uscirà a giugno, proprio emerge come personaggio, perché lei è una grande amica di Nicole, quindi parleranno chiaramente di cadaveri, parleranno anche di facezie, anche di sciocchezze. Adesso ci salutiamo perché vorrei parlare pur brevemente di Musica sulla Bizzo, che sarà in libreria dal 10 giugno prossimo, ovvero la seconda parte della saga di Nicole, mi viene da dire. Detto per inciso, sai già se sarà una trilogia, se andrà oltre, visto che è una passione per il numero 3. È vero, hai ragione. Non lo so, perché Le Spose Sepolte è stato opzionato da Mediaset, quindi noi scrittori sappiamo che quando un libro è opzionato non vuol dire ancora, sei a un quarto della strada, non è detto che facciano la serie TV, però qualora la facessero andrò avanti. Opzionato, lo spieghiamo, vuole dire che nessun altro può, per un tot di tempo, previo un contratto, acquisire i diritti, sono bloccati. Esatto, perché l'hanno attenzionato appunto per una serie TV. Allora, sicuramente adesso esce questo, sto già pensando al prossimo. E, quindi almeno a tre arriviamo. Sì. Poi vediamo se si va oltre. Sì. Dunque, ancora soltanto una domanda brevissima, il grande amore per Gabriel García Márquez, perché l'abbiamo detto ma non l'abbiamo spiegato. Ah, allora sì, proprio un grande amore. È un amore nato quando ero piccola, avevo 12 anni, e l'ho scoperto per caso, perché a 12 anni io vivevo a Bologna, sono stata proprio strappata da Bologna e portata in Brianza, e devo dirvi che l'ambiente è un pochino diverso in Brianza. Siete d'accordo? E ero molto triste perché ero lontana dai miei amici, insomma era un mondo completamente nuovo e poi trascorrevo i pomeriggi nell'armadio a piangere perché ero piccolina, ci stavo benissimo, finché poi un giorno ho scoperto nella libreria di mia sorella questo libro, ho detto 100 anni di solitudine. Cioè, già il titolo sentivo che mi appartenevano, solitudine, e quindi ho cominciato a leggerlo e invece si è dispiegato proprio un mondo e lì ho, adesso a posteriori posso dire che lì ho capito, cioè ho sentito più che capito, le possibilità della lettura. Qua credo che ci siano molti lettori e sanno di che cosa sto parlando, no? Dei mondi che ti dispiega un libro, ma soprattutto ti fa capire, ti fa sentire meno solo, ti fa capire che ci sono situazioni peggiori della tua e soprattutto che le cose si possono migliorare, che è tutto molto più colorato. Dicevo, prima parlavamo io ti raccontavo anche che con Márquez ho scoperto tante cose, ho scoperto i tipi di amore burrascoso, ho scoperto le rivoluzioni e poi dopo l'ho letto tutto. Devo dire che 100 anni di solitudine resta il mio preferito, però da Márquez io ho preso diciamo, non posso dire ho imparato perché mi sentirei presuntuosa, però la grandezza di Márquez, secondo me, è al di là di una lingua veramente superiore in qualche modo, ricchissima, colorata, al di là della lingua c'è proprio la compiutezza, cioè il fatto che lui riesca a far quadrare il cerchio, e questo non lo ritrovo in tutti i romanzi, e il fatto che tutto torni alla fine. Io non so se avete in mente l'ultima pagina di 100 anni di solitudine, quando finalmente, posso dirlo perché tanto è un classico, no? Posso dirlo, quando finalmente vengono aperte e lette le pergamene, interpretate le pergamene di Melchiades, di cui si parlava nelle prime pagine. Queste pergamene praticamente non avevano... Allora, Melchiades è lo zingaro che in qualche modo ha accompagnato tutte le gesta, le imprese dei Buendia, che è la famiglia di 100 anni di solitudine. Insomma, e il lettore per tutto il tempo ha la curiosità, ma cosa contengono queste pergamene? Allora, Márquez è riuscito a condensare in meno di una pagina proprio anche il segreto del tempo, se vogliamo, perché in queste pergamene lui ha svelato tutta la vicenda della solitudine dei Buendia. Cioè, era già anticipata dalla prima pagina quando il capostipite ha conosciuto Melchiades, e poi dopo c'è la catastrofe. Però è una catastrofe che è in qualche modo costruttiva. E allora, davvero, veniamo al libro che sta per uscire, che è Musica sull'abisso, ovvero Nicole 2, a proposito. Sì, Nicole 2 è ambientato, io non potevo ambientarlo di nuovo a Monterocca, perché non può essere come Cabot Cove, che tutte le sfortune avvengono lì, però Si svolge nel centro storico di Bologna e mi sono divertita perché noi abbiamo un centro storico veramente notevole, molto medievale, con queste torri. Poi Bologna è molto è ambivalente, perché da un lato c'è questo reticolo di portici che dà quasi un'idea di ragnatela, no? Per cui da un momento all'altro sembra che arrivi un ragno a divorarti. Dall'altro è molto materna, perché a parte che i portici stessi proteggono, poi ci sono tutte queste torri che incombono. Cioè, se voi camminate nel centro storico, noi ne abbiamo ancora 22 delle 100 del XIII secolo, ne abbiamo ancora 22 e non potete non passare sotto l'ombra di una di queste 22. E poi c'è tutta la parte sotterranea di Bologna, la Bologna d'acqua, dei canali. E quindi sicuramente lo scenario mi ha permesso di divertirmi molto, però la storia, ho cercato una storia che fosse inquietante, tanto per cambiare. In questo caso Micol si rende conto, ci sono tutta una serie di omicidi, per cui si rende conto che questi omicidi sono collegati perché sono tutti riconducibili a una stessa classe di liceo, cioè gli ex studenti di quella quinta liceo stanno morendo nel corso degli anni tutti lo stesso giorno, in modalità che sembrano diverse e comunque sono molto sospette. Lei li mette assieme, ma soprattutto scopre che gli stessi ragazzi hanno ideato l'ultimo anno di liceo una canzone che in latino non si capisce come mai questa canzone è come se anticipasse come sarebbe morto ciascuno di loro. Molto interessante, anche perché ancora una volta sono... Grazie, grazie. Grazie davvero. Grazie di cuore a te e grazie a tutti voi. Grazie a Fabrizio e a tutti i colori del giallo. Grazie, grazie.